Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: molto incerte oggi le borse, meno 0,4 adesso Milano, più pesante il calo di Wall Street, meno 1,2%, con Parigi che perde lo 0,6 e Francoforte lo 0,2, Londra meno 0,5%. La notizia più importante da un punto di vista economico-finanziario oggi riguarda il dato italiano sul PIL. E lo dico subito, così ci mettiamo il cuore in pace, è una sorpresa in negativo, ossia il quarto trimestre del 2009, invece che avere, come ha fatto anche il terzo, un leggerissimo segno più 0,2, ci si attendeva più 0,1, in realtà ha avuto il segno meno 0,2 rispetto al trimestre precedente, rispetto a un anno prima. Siamo a un calo di oltre 2%, ma la cosa che è più importante, come ripetiamo ormai da mesi, è guardare al dato congiunturale, a come si muove trimestre su trimestre. Ebbene, c'è stata una nuova inattesa frenata dell'economia italiana nella parte finale dell'anno, devo dire per alcuni versi anche, non dico prevedibile, però qualche sentore si era avuto dai dati sulla produzione industriale e sugli ordinativi alle nostre imprese. Gli ultimi dati di dicembre sulla produzione industriale non erano stati esaltanti, il che significa che la crescita acquisita, cioè la velocità con cui si è entrati nel 2010 è pari a zero, e non cambierà o potrebbe non cambiare di molto il risultato. Magari invece che fare un più 1,1 quest'anno faremo un più 0,9, certo sarebbe stato meglio il contrario, a dimostrazione che questa ripresa comunque è fragile, fragilissima. Abbiamo visto la Spagna non uscirne ancora, nemmeno nel quarto trimestre, e che comunque le difficoltà sono ancora tutte lì sul tappeto. Ne parleremo in apertura, e dopodiché parleremo anche di altri elementi. Mi riferisco per esempio all'andamento, la prima debuttante in borsa di quest'anno, ma anche e soprattutto, su vostra richiesta, intervisteremo chi si occupa di ricollocare le persone che perdono un lavoro in questo periodo, che purtroppo non sono poche, e mi riferisco sia agli impiegati che agli operai, ma anche ai quadri e ai dirigenti. Si notano tendenze abbastanza interessanti, si allunga il periodo che ci si mette per ricollocarsi. Chiuderemo poi con il presidente dei costruttori italiani, che ha detto: attenzione, espelleremo chi metterà in atto pratiche di corruzione, pratiche illegali. Il riferimento chiaramente era alle vicende di cui si sta occupando la magistratura e tutti i giornali riferiti agli appalti alla Maddalena, ma non solo. E sarà anche l'occasione per parlare anche del settore delle costruzioni, che è un settore che ha avuto un'emorragia vera e propria di posti di lavoro, si calcola oltre 100.000 posti di lavoro. Comunque un elemento importante per l'ANCE, che è appunto la principale associazione dei costruttori dell'edilizia in Italia. 349-238-6666 per i vostri sms. Le altre notizie in breve. Allora, le notizie, dicevamo oggi importante il dato dell'ENI, che ha diffuso il bilancio sul 2009, a 4,6 miliardi l'utile, scende del 47,7%, il dividendo scende a 1 euro per azione contro 1,3 euro distribuito nell'anno precedente. Ricordo che di questo dividendo già 50 centesimi furono distribuiti come acconto. La cosa importante però è che nel quarto trimestre dell'anno Eni è tornato in utile, con praticamente 640 milioni di risultato positivo contro 870 milioni di risultato negativo nell'ultimo trimestre del 2008, e la produzione di idrocarburi è salita dell'1,7%, raggiungendo 1.890.000 barili al giorno. Il numero uno dell'Eni, Paolo Scaroni, ha detto: il 2009 è stato un anno difficile per il nostro settore e noi comunque abbiamo ottenuto risultati superiori alle attese. E poi è intervenuto anche sulla vicenda Snam, la possibile cessione di Snam, Ha detto Scaroni, infatti, anche se decidesse di vendere una sola azione di Snam Rete Gas, avrei bisogno di chiedere l'autorizzazione del governo. Come ha reagito la borsa? Bene, Eni è il secondo miglior titolo oggi tra quelli a maggiore capitalizzazione, più 1,3%, Campari più 4,6%, il migliore Snam Rete Gas più 1,2%, Terna più 1%, Enel più 0,90%, Fondiaria più 0,70%. Italcementi perde il 3,6, Buzzi Unicem il 3,2 come Fiat, il 3,2 lo perde anche la Popolare di Milano e ancora il Banco Popolare meno 2,5, Impregilo meno 2,2, Atlantia meno 2,2, Pirelli meno 2, Unicredito meno 1,80, Mediolanum meno 1,80% e ancora l'1,8 lo perdono le CIR, l'1,7 ST Microelectronics, 1,5% il calo di Parmalat, Bulgari meno 1,3 come il Monte dei Paschi. Perde l'1,2 poi Mondadori e anche Mediaset, l'1,1 è il calo di Prismian e di Mediobanca, l'1% quello di Tenaris e Exor. L'euro come si muove? A 1,36, quindi in leggero recupero la moneta unica contro il dollaro. Le notizie di carattere internazionale. Partiamo come sempre dal petrolio, leggero calo, ma siamo sempre a 74 dollari al barile. Sull'economia internazionale, la Cina ha aumentato per la seconda volta in un mese la quota di depositi che le banche commerciali devono mettere come riserva. Ed è un ennesimo tentativo di contrastare il surriscaldamento dell'economia cinese. La Cina ha un problema opposto rispetto al nostro, cresce troppo e da più parti si teme una bolla del credito in Cina. Scatterà questa misura il prossimo 24 febbraio. Bene le vendite al dettaglio in America nel mese di gennaio, più 0,5%, male invece la fiducia dei consumatori americani. Il mese relativo a febbraio è scesa a 73,7 punti a sorpresa. L'Italia. Oggi la Banca d'Italia ha diffuso i dati sulle entrate fiscali, le entrate tributarie si sono attestate a quota 401 miliardi di euro, in calo del 2,5% rispetto ai 412 miliardi del 2008, quindi sono 11 miliardi in meno. Sono però tornate a salire a dicembre, più 1,4%, e il debito pubblico italiano a dicembre è leggermente sceso, è arrivato infatti a 1.761 miliardi di euro contro i 1.784 miliardi di novembre. E calano comunque i rendimenti delle obbligazioni italiane, i BTP a 5, 15 e 16 anni, oggi collocati in asta. Quelli a 5 anni hanno segnato un rendimento lordo del 2,86% con una buona richiesta, 4 miliardi e mezzo con un'offerta di 3 miliardi e mezzo. Ancora maggiore il calo dei BTP a 16 anni, al 4,50% rendimento lordo, anche qui buona la richiesta, 3 miliardi e 900 milioni contro 2 miliardi e mezzo offerti. Buona la richiesta infine anche del BTP a 15 anni, rendimento del 4% sempre lordo, richiesta per 2 miliardi e 8 contro un'offerta di 1 miliardo e 7. Sugli incentivi ne parleremo la prossima settimana anche con il sottosegretario allo sviluppo economico Stefano Saglia. Comunque per ora, esclusi gli incentivi auto, ne abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi, si ragiona su incentivi che dovrebbero riguardare il comparto delle caldaie, dei condizionatori e dei veicoli commerciali, dei rimorchi. Sembrano certi invece gli interventi su elettrodomestici, mobili da cucina, cantieristica navale, macchine agricole e il settore tessile. E allora, vedo già molte domande anche su Fiorani, torneremo su Fiorani, non vi preoccupate, c'è una nuova udienza il 24, vado a memoria. Vedo già molte domande sui costruttori, ne parleremo alle 18.15, comunque vi confermo che il presidente dell'ANCE, Buzzetti, che sarà nostro ospite, ha dichiarato poco fa che verrà espulso dall'ANCE chi opera nell'illegalità. Bene, primo tema, bene, si fa per dire, perché il primo tema è di quelli che meriterebbero un gufo in apertura, ma oggi no, è venerdì, stiamo tranquilli, vedo che Già lo chiedete, il dato sul PIL italiano, insomma nel 2009 abbiamo fatto meno 4,9%, è il peggiore almeno dal 1971, da quando inizia la serie statistica, per cui in realtà c'è il rischio che sia il peggiore da sempre, dal dopoguerra. Mai un calo così forte, va detto che nemmeno in Germania avrà stato un calo così forte dal dopoguerra, però in questo caso un mal comune non è mezzo gaudio. La sorpresa invece arriva dal dato congiunturale. Eh sì, perché il meno 0,2 nel quarto trimestre era decisamente inatteso. Vi dico, insomma, il 2009 ha fatto il primo trimestre un meno 2,7 sulla fine del 2008, poi un meno 6, scusate, poi il meno 6 era il tendenziale, poi il secondo trimestre ha fatto un meno 0,5 sul trimestre precedente, quindi è rallentata la velocità di caduta. Il terzo trimestre va fatto segnare un più 0,6% sul trimestre precedente, quindi si era tornati a vedere il segno più, ci si attendeva un più 0,2 adesso, nell'ultimo trimestre dell'anno, rispetto a quello prima, e invece così non è stato. Devo dire che a livello europeo il dato è praticamente di uno 0,1% il quarto trimestre sul terzo trimestre, però nel 2009 la produzione industriale a livello europeo ha fatto un meno 15% e un meno 1,7% a dicembre. La media del calo, in alcuni casi crollo, del PIL europeo è del 4%, noi perdiamo un po' di più, il 4,9%. Tant'è che Bruxelles oggi deve dire che, insomma, la crescita registrata dal PIL dell'area euro nell'ultimo trimestre del 2009 è purtroppo inferiore alle aspettative. Sì, tutti, insomma, speravamo in un irrobustimento di questa ripresa, per quanto morbida, per quanto fragile. La Germania ha fatto un PIL invariato quarto trimestre sul terzo trimestre, bene la Francia, più 0,6 il quarto sul terzo, la Grecia meno 0,8 il quarto sul terzo. Comunque va detto che, insomma, anche in Francia, dove il calo complessivo del 2009 è stato solo del 2,2%, cioè meno 2,2, meno della metà di quello italiano, è il peggior dato in Francia dal dopoguerra. Tutti i dettagli, come sempre, in questa scheda. La ripresa è rimandata. Se il miglioramento del PIL registrato tra luglio e settembre aveva acceso la speranza, il risultato degli ultimi tre mesi del 2009 raffredda infatti i prematuri ottimismi. Contrariamente alle attese, il prodotto interno lordo è diminuito dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e del 2,8% nel confronto con lo stesso periodo del 2008. Peggiora così ulteriormente il bilancio dell'intero anno, che si chiude con un arretramento della nostra economia del 4,9%, il peggior risultato da almeno il 1971. Gli effetti si faranno purtroppo sentire anche quest'anno, che affronteremo partendo da fermi. Come spiega l'Istat, la nostra economia dovrà infatti vincere l'inerzia di una crescita acquisita per il 2010 pari a zero. Conforta poco il confronto con gli altri paesi, che vede anzi l'economia italiana essere tra quelle che più hanno sofferto l'impatto della crisi. Stando ai dati sinora disponibili, la Francia è riuscita a contenere la flessione annuale del PIL ad un meno 2,2%, mettendo a segno un progresso dello 0,6% nell'ultima parte dell'anno. Gli ultimi tre mesi dell'anno si sono chiusi con il segno più anche in Gran Bretagna e Stati Uniti. Stenta invece a rimettersi in moto l'economia tedesca, rimasta bloccata nel quarto trimestre, contrariamente alle attese, e colpita da un calo del 5% nell'intero 2009. I 16 paesi dell'area euro nel loro complesso si lasciano alle spalle un calo annuo del PIL del 4% e un piccolo progresso, più 0,1%, negli ultimi tre mesi dell'anno. Vabbè, ripeto, non si riesce a dire mal comune mezzo gaudio. Comunque, partiamo dalla notizia che è la sorpresa, perlomeno in tutti i quali si attendevano un segno più, per quanto modesto, anche nel quarto trimestre. Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Sorpreso anche tu? Sorpreso no, perché dopo il dato di produzione industriale negativo a dicembre, in generale nel quarto trimestre era evidente un segno negativo, perché solo dalla produzione industriale così a spanne ci veniva un quasi meno 0,2 di contributo al PIL, e siccome i segnali che venivano dagli altri settori, soprattutto i servizi che sono una parte più pesante, erano diciamo verso una stagnazione, questo inevitabilmente ci portava a rivedere i nostri calcoli, le nostre stime, che invece puntavano a qualcosa decisamente migliore, a un più 0,2, quasi più 0,3 nel quarto, nell'ottica di una graduale presa diciamo delle forze della ripresa, anche se questa è una parola che è un obbrobrio in queste condizioni, però insomma via via un'evoluzione un po' migliore, anche se non fantastica. Cioè, voglio dire, adesso lo dico anche chi scrive al 349-238-6666, abbiamo sempre ricordato che la fragilità di questa ripresa, e lo hanno detto tantissimi soggetti più importanti di noi, certo è, Luca, che non so, così, nessuno immaginava che la fragilità fosse così alta da non portare nemmeno un pizzico di ripresa. Cioè, voglio dire, la Germania almeno ha fatto invariato il quarto sul terzo, la Francia ha fatto più 0,6. Come mai noi non riusciamo a agganciare quel poco, quel pochissimo di ripresa che si vede in Europa, ma magari agganciare anche quella ripresa ben più robusta, tant'è che si parla di surriscaldamento che c'è in Cina, in India, nei paesi emergenti? Beh, lasciamo perdere questi ultimi casi dove giocano due fattori cruciali, uno di natura strutturale che è il percorso di inseguimento di questi paesi che sono decollati sul piano economico e industriale agli standard di vita e di benessere dei paesi occidentali, e l'altro congiunturale di politiche economiche, soprattutto quello cinese, fortemente espansive, e quella è un'economia dove il governo comanda, nel senso che dice alle banche di erogare prestiti e le banche obbediscono, e inevitabilmente, essendo un'economia da questo punto di vista ancora pianificata, così come quando decide di spendere, spende. Poi bisogna andare a vedere se ciò che è stato speso è diventato uno spreco di risorse, perché i progetti sono inefficienti e così via, però per intanto ciò alimenta la domanda e quindi la crescita, tant'è vero che la Cina adesso è costretta a fare un po' di exit strategy, cioè di rientrare un po' da queste politiche, basta vedere la decisione varata anche oggi di stringere i cordoni del credito. Viceversa, il confronto nostro è con altri paesi europei, per esempio la Francia che ha fatto un più 0,6, dove però è vero che la Francia ha varato politiche espansive molto robuste, ha un deficit pubblico molto più elevato del nostro, mentre noi non abbiamo avuto questa possibilità perché il nostro debito ce lo sconsigliava e quindi non abbiamo avuto questo sostegno. Quello che è vero che si può osservare è che c'è un aggancio lento, allentato, lungo delle nostre esportazioni alla ripresa del commercio mondiale. Questo per due ordini di ragioni. La prima è che il rilancio di questo commercio avviene in aree e tra paesi che sono lontani dall'Europa e nei quali la nostra presenza è molto scarsa, parlo appunto dei paesi del lontano oriente, e in secondo luogo perché la specializzazione delle nostre produzioni, macchinari e attrezzature, quindi beni di investimento o beni di lusso accessibile, quindi beni di consumo di fascia medio-alta, non sono certo i primi a ripartire in una ripresa, e questi due fattori, cioè il lento incedere delle nostre esportazioni e la lontananza dei mercati più dinamici, fanno sì che non beneficiamo abbastanza della ripresa globale in un contesto di domanda interna che sono anni che fatica a crescere. Allora, sì, chiaro il tuo ragionamento, cioè le 4A, famose 4A, arredamento, automazione, alimentare e abbigliamento, se le valutiamo soprattutto una parte più di lusso, più di cioè valore aggiunto, oppure come bene di investimento, penso a tutti i macchine, appunto la meccanica industriale, cioè quello si intende per automazione, non sono al primo posto nelle priorità quando riparte una crescita. Devo dire che arrivano anche dei messaggi, mi fanno piacere, di alcuni ascoltatori che invece stanno lavorando molto bene, hanno commesse altissime. Dopo 5 mesi di cassa integrazione ora sono all'opposto, stanno facendo gli straordinari. Nel caso specifico, un gruppo che si occupa di produrre macchine per scopo e spazio, tutto fa brodo, tutto va bene. Il dato statistico aggregato però ci dice che dicembre è andato meno bene del previsto, anzi è andato male, per essere proprio diretti. Luca Palazzi, di che cosa ci sarebbe bisogno in questo momento? Lo chiedo più all'economista a questo punto. E cioè, tu citavi il caso francese, la Francia non ha il nostro problema di debito, è anche vero che la Francia è stata molto più spregiudicata fin dall'inizio nel dire a noi non interessa Maastricht, non ci interessa il deficit, prima deve ripartire l'economia e i consumi. Manca una politica industriale, ossia dirottare le poche risorse che ci sono verso alcuni settori chiave, oppure manca lavorare sulla domanda interna e quindi far ripartire in qualche modo i consumi? Prima di rispondere vorrei dire qualcosa legato a questi SMS positivi. C'è una certa e diffusa evidenza di miglioramento, nel senso che ascoltare imprenditori si sente che quelli che prima erano molto increduli sulla ripresa cominciano a dire no, effettivamente qualcosa c'è, qualcosa si muove, quindi è possibile che una parte della crescita che non abbiamo osservato, più che crescita recupero di attività e ordine che non abbiamo osservato nella seconda metà dell'anno scorso, ci sia nella prima metà di quest'anno e l'euro più debole o meno forte e il petrolio più basso sicuramente daranno una mano nel corso di quest'anno. Quello che è vero è che purtroppo l'ingresso così basso fa sì che ci sia in generale una media più bassa e quindi le previsioni intorno all'1% rimarranno, anche se si dovesse verificare, come tutti noi speriamo e come indicatori anticipatori di fiducia sembrano suggerire, una maggior dinamismo, una maggior slancio rispetto a quello che ci si attende o è scritto nelle previsioni in generale. Riguardo alla domanda, in realtà le due cose si tengono, non parliamo di politica industriale, parliamo di politica che metta al centro la capacità del sistema paese di adattarsi ai cambiamenti del contesto internazionale e delle nuove tecnologie, che significa sostanzialmente una maggiore amichevolezza, possiamo usare questo neologismo, verso l'attività d'impresa, verso una flessibilità che non significa mancanza di tutela o di sostegno del reddito, ma magari invece maggiore qualificazione, formazione per le persone che non trovano lavoro nelle vecchie produzioni, significa più infrastrutture, significa una riforma della pubblica amministrazione che la renda più efficiente, più capace di rispondere alle esigenze di una crescita del benessere del paese, significa fare conto soprattutto sulle nuove tecnologie, significa maggiore libertà di mercato in una serie di comparti come quelli dei servizi, dove questa libertà è meno forte, c'è meno concorrenza e quindi c'è più inefficienza. Le due cose insieme darebbero più slancio alla produttività, quindi ai redditi e alla domanda interna, di conseguenza in un circolo virtuoso. Scusami Luca, una domanda da ignorante quale sono, ma i 40, 50, forse 60 miliardi stimati di debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese per lavori già effettuati o comunque soldi che dovrebbero arrivare, se venissero dati sono già messi a bilancio come voci, come soldi che devono uscire, o inciderebbero in maniera diretta sul deficit? No, non vengono contabilizzati in realtà nel deficit, o meglio, dipende diciamo che se sono correttamente misurate le spese delle pubbliche amministrazioni locali, perché sono queste quelle che maggiormente devono questi soldi, la maggior parte di questi soldi sono nella sanità. Se queste fossero state misurate correttamente, allora sarebbero già stati calcolati nei deficit passati, ma spesso abbiamo visto revisione al rialzo di questi deficit proprio perché la contabilità non è stata tenuta o riportata meglio al centro, in modo corretto. Quello che va detto è che sicuramente non sono incluse però nel debito, perché si tratta di debiti commerciali per una strana consuetudine europea non fanno parte dei veri debiti e quindi comunque avremo un innalzamento del livello del debito, però è una situazione in ogni caso insostenibile che costringe le imprese ad avere un maggior capitale circolante, quindi maggiori debiti in un contesto dove il credito sicuramente non è facile e quindi blocca, ostacola, frena. No, e poi le soluzioni proposte sono state anche diverse, cioè senza avere per forza i soldi si potrebbero scaricare dalle tasse dovute, quindi nel futuro avere degli acconti, ecco, già questo permetterebbe di far respirare. Sono 40-50 miliardi, si calcolano in alcuni casi anche 60 miliardi dovuti dalla pubblica amministrazione alle imprese di vario genere. Vedo che anche altri ascoltatori ci scrivono da Bagni di Lucca: più 80% degli ordini dall'estero, si cercano operai. Bene, lo diciamo volentieri in questo periodo. Nel frattempo ringrazio e auguro buon fine settimana al direttore del Centro Studi Confindustria Luca Paolazzi. E, grazie anche a te Luca. E il metodo, la pubblicità, poi la borsa che ha chiuso con un leggero meno 0,19% oggi su Milano. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:39 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa e poi di società che si quotano e anche di chi dà una mano a chi perde il lavoro a ricollocarsi e anche cercando di capire che cosa nota in questa dinamica. Dunque, sono arrivati altri messaggi al 349-238-6666 di imprenditori, devo dire piccoli nella maggior parte dei casi, che registrano dei buoni incrementi a inizio anno. Non valgono a livello statistico, valgono come segnale. L'ultimo che sto leggendo è di chi costruisce macchine per l'industria alimentare, per cui noi tutti ci auguriamo che i segnali di gennaio e febbraio, che obiettivamente si raccolgono in giro in maniera molto molto anche a macchia di leopardo, poi vengano fotografati dal prossimo dato Istat sul PIL. Purtroppo l'ultimo trimestre del 2009 si è chiuso con il segno meno. Dicevamo altre notizie appena arrivate. Allora, ha parlato Sergio Marchionne, numero uno della Fiat, sia di Termini Imerese. Ha detto: stiamo facendo il possibile e con il governo italiano siamo alla ricerca di una soluzione. Sono più fiducioso sul futuro di Alfa Romeo dopo la nomina al vertice di Harald Wester. E per quello che riguarda Toyota, ne avete letto, insomma, ne parliamo da settimane, delle centinaia di migliaia di auto Toyota ritirate in tutto il mondo. Ha detto Marchionne: a Toyota va la mia simpatia e la mia comprensione, ma siamo competitor e siamo anche pronti per riempire l'eventuale vuoto creato da Toyota. Adesso la borsa. Borsa che oggi, pur chiudendo leggermente negativa, nel senso che il finale è meno 0,19%, Parigi mezzo punto percentuale di calo, Francoforte invece invariata, Londra meno 0,3%, l'America perde un 1%. Dicevo, pur chiudendo negativa, ha come casi Campari più 5,1%, Snam più 1,1%, come Eni e The Enel, Fondiaria Assai più 1%, Terna più 1%. Peggior titolo Italcementi meno 3,2%, Fiat meno 3,1%, Buzzi Unice meno 2,70%, Popolare Milano meno 2,5%, Impregilo meno 2,2%, Banco Popolare meno 2, Atlantia meno 1,80, Unicredito meno 1,6, CIR meno 1,5 come Pirelli ed Estima Microelectronics, Mediolanum meno 1,3 come Geox, l'1% per De Parmat, ma anche Tenaris e Prismian. Ancora, per quello che riguarda il migliore e peggiore in assoluto, ETWAY più 9,1, Unilever più 8,30, Campari appunto l'abbiamo detta, e peggiore in assoluto Cell Therapeutics meno 5,6, Meridie SPA meno 6,9, Renault meno 5%. Eleonora Micheli, Radio Corri, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. La rifaccio la battuta. Campari, cos'è, l'effetto weekend, happy hour, aperitivo o c'è dell'altro? Sì, può darsi che sia l'effetto weekend, ma al di là di questo... Effetto spritz, da noi anche battezzato tempo fa. Al di là di questo... Innanzitutto, da un punto di vista tecnico, i titoli hanno accelerato dopo che sono state superate certe soglie tecniche poste attorno a 7,4 euro. Le azioni hanno chiuso a 7,64. A dare, diciamo, in là gli ordini di acquisto sono stati anche i dati che ieri ha pubblicato la concorrente di Oltremanica di AGO, che ha appunto reso noto dei conti in calo, ma in linea con le attese, che fanno ben sperare anche per i numeri del bilancio di Campari, che comunque saranno resi noti a fine marzo. Allora, altro titolo che bene si è comportato è Eni, più 1,1, come Snamret e Gas, più 1,1. Allora, oggi Eni ha diffuso i dati sul 2009, li ricordavamo in apertura. Comunque, l'utile è calato del 47,7%, è sceso a 4 miliardi e 620 milioni, il dividendo è sceso da 1,30 euro a 1 euro, di cui 50 centesimi già distribuiti. Però il quarto trimestre ha visto un ritorno all'utile a 640 milioni contro un rosso un anno prima di 870 milioni. E Paolo Scaroni, il numero uno dell'Eni, ha detto: beh, l'anno è andato in un settore che ha avuto i cali dei prezzi del petrolio e altre, e i cali della domanda di petrolio. Noi siamo andati meglio del settore e ci hanno sorpreso i risultati. Devo dire che il mercato la pensa così, perché poi il titolo l'ha premiato. Sì, esatto. Piazza Affari ha apprezzato innanzitutto la cedola di un euro. C'era chi scommetteva che appunto la cedola potrebbe essere stata più bassa rispetto a un euro. E poi comunque lo stesso Scaroni ha dato un messaggio cauto ma ottimista. Ha detto che il 2010 sarà un anno difficile, ma comunque la società continuerà a generare buoni risultati, e quindi questo ha incoraggiato una serie di ordini in acquisto. Peraltro il manager ha fatto anche un po' di chiarezza sulla vicenda dei giorni scorsi, di cui si era molto parlato, cioè sull'eventualità di uno scorporo di Snam. Il manager Scaroni ha detto che potenzialmente l'operazione sarebbe possibile, ma non c'è nessuna urgenza, e comunque dovrebbe essere un'operazione che dovrebbe essere approvata dallo stesso governo. Sì, la frase esatta è stata: se anche decidessi di vendere una sola azione di Snam, avrebbe bisogno di chiedere l'autorizzazione del governo. Bene anche Enel, più 1,1, ne abbiamo parlato due giorni fa raccontando questa nuova emissione obbligazionaria da 2 miliardi che andrà su tutti i per tutti i risparmiatori, non solo per gli istituzionali. Altri motivi? In questi giorni i vertici di Enel sono in giro, incontrano analisti nelle varie piazze finanziarie, analisti e gestori, illustrando ovviamente i conti della società per fare un roadshow, per poi presentare l'operazione di emissione del bond. Si vedono gli effetti, i titoli sono saliti. Allora, ancora. Tra i titoli abbiamo visto andare bene Fondiere 6 più 1, Terna più 0,90, lo ricordavamo, Intesa va bene più 0,4 e anche UbiBanca chiude invariata in una giornata in cui invece i bancari, soprattutto Popolare Milano e Banca Popolare e Unicredit, hanno sofferto. Sì, i titoli si sono mossi appunto in controtendenza, soprattutto quelli di Intesa. È vero sì che in questi giorni i titoli bancari si muovono abbastanza in ordine sparso e anche oggi hanno registrato un andamento estremamente volatile. Su Intesa si fa un gran parlare in questi giorni e probabilmente anche questo ha riacceso un po' i riflettori del mercato sulle azioni. In particolare, evidentemente c'è qualche gestore che ha deciso di scommettere sulle azioni. Per quello che riguarda appunto i titoli in assoluto, il migliore e peggiore, volete sapere? Devo dire Unilever più 8,30 e appunto ITWell, l'abbiamo detto, anche Cell Therapeutics è stata citata. C'è una notizia che riguarda invece il gruppo Finmeccanica, ma non tanto sulle notizie di mercato quanto sui vertici, perché poco fa il sottosegretario al Presidente del Consiglio Gianni Letta, a chi gli ha chiesto all'Aquila se dovesse essere Pier Francesco Guarguaglini dovesse continuare a essere il numero uno di Finmeccanica, ha detto: per quanto mi riguarda, di sicuro, ma non dipende solo da me. E questa notizia a cavallo tra governance, diciamo, e mercato. Finmeccanica oggi comunque ha perso lo 0,65%. Grazie Leonora Micheli e buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Radio Cor. Buon fine settimana a tutti gli ascoltatori. le informazioni sul traffico e poi parliamo di società che vanno a quotarsi e di società che aiutano chi perde il lavoro. 349-238-6666 per i vostri sms. Continuiamo a parlare di borsa, ma di matricole, che più che matricole sembrano meteore, visto che di matricole ce ne sono viste molte poche negli ultimi mesi, a ben vedere anche con quello che ha fatto la borsa nel 2009, soprattutto la prima metà. C'è però una società che ha annunciato che a questo punto dovrebbe essere la prima matricola del 2010. Si tratta di PMS, società di comunicazione specializzata soprattutto in quella finanziaria di impresa, fondata nel 99 a 9 milioni di euro di fatturato, e ha quotato altre società in borsa, cioè ha gestito la quotazione di altre società in borsa come Terna, Astaldi, Ansaldo STS, tanto per citare le più note. Siamo in collegamento con Patrizio Surace, fondatore e amministratore delegato di PMS. Buonasera. Buonasera. Allora, voi che avete accompagnato così tante società a quotarsi, a debuttare in borsa, da chi vi fate accompagnare questa volta? Nomad, che è la figura prevista dal mercato AIM, che è il mercato per le piccole e medie imprese, è UGF Merchant, mentre lo studio legale Advisor lo studio Chiomenti e la società di revisione è la Mazzar. Il motivo per cui Surace avete deciso di collocarvi in borsa, capisco che il 2010 va meglio del 2009, però insomma non sono mancati chiari di luna nemmeno in queste ultime settimane. Direi è un segnale di fiducia che riponiamo nel nostro paese e nella capacità del nostro paese di riprendersi. Crediamo fortemente in un progetto imprenditoriale che fin dal primo anno di fondazione della nostra società abbiamo cercato di perseguire, quella di una crescita costante e di diventare negli anni un momento di aggregazione di risorse qualificate nel mondo della comunicazione e anche di attività sinergica tra di loro sempre nello stesso mondo. Voi avete, lo dico anche, 9 milioni di euro di fatturato, quindi siete una realtà solida ma piccola come fatturato, 80 persone, 400 clienti di cui 40 quotati, però quanta parte del capitale andrà in borsa, cioè quale sarà il flottante? Stiamo vedendo proprio in queste settimane che potrà oscillare dal 10 e il 15%. E quanto pensate di raccogliere? Tra i 2 e 3 milioni di euro che destineremo appunto al progetto di crescita del nostro gruppo, sia nei settori in cui siamo presenti attraverso aggregazioni o anche piccole acquisizioni, sia anche nuovi business assolutamente complementari alla nostra attività principale. Un'ultima domanda, non temete poi di vivere tutti i giorni col cardiopalma per i saliscendi del titolo oppure di tutti gli obblighi e adempimenti anche di legge, penso, le trimestrali? Il mercato AIM non prevede l'obbligo di trimestrale, per cui saremo chiamati a comunicare i nostri dati solo due volte all'anno. E diciamo che la trasparenza non ci spaventa, per cui guardiamo a questo mercato con grande interesse, senza patemi d'animo, ma con la consapevolezza che, come nel passato abbiamo accompagnato tante importanti società nel processo di quotazione, saremo in grado anche noi, per noi stessi, di gestire il processo di quotazione e anche quello che succede dopo il processo di quotazione. Una domanda che arriva dagli ascoltatori, Surace, perché se contate di raccogliere, insomma se è importante raccogliere almeno 2-3 milioni di euro, non avete fatto ricorso ad altri strumenti, classicamente linee di credito bancarie o private equity, cioè soggetto che entra e mette una quota di questo valore, 2-3 milioni? Noi non ci quotiamo in borsa per i 2-3 milioni soprattutto, ci quotiamo soprattutto per la visibilità e l'effetto, diciamo, di comunicazione, di marketing e la distintività che questo dà alla nostra società. Per quanto riguarda il private equity è notorio che non investe in piccole società e per cui guarda non con grande attenzione a società di queste dimensioni. Per quanto riguarda l'accesso ordinario, noi non abbiamo mai avuto problemi, anche se fino a poco tempo fa non abbiamo mai avuto nemmeno bisogno di avere un accesso ordinario al credito, e di conseguenza il motivo principale della quotazione non è tanto l'accesso a risorse finanziarie, ma soprattutto l'effetto di trascinamento che noi pensiamo possa produrre da questo tipo di attività. Beh, in bocca al lupo, come sempre facciamo alle debuttanti, anche a PMS. Quando è il collocamento? Stiamo proprio discutendolo in questi giorni, stiamo già iniziando a ricevere delle manifestazioni di interesse da potenziali investitori. Contiamo di farlo nel più breve tempo possibile. In bocca al lupo di nuovo alla PMS, prima grazie debuttante molte, in grazie borsa. A lei e ai suoi ascoltatori. Allora, adesso c'è il GR, poi torniamo a occuparci sia di chi aiuta a ricollocare il lavoro, sia dei costruttori, ma anche del bilancio raccontato la nostra Raffaella Calanda dal Tribunale Fallimentare di Milano. 1923 istanze di fallimento. Chiaro che la notizia di cronaca riguarda il gruppo Burani, ma non c'è solo quella, sono 600 in più rispetto al 2008 e con dati che purtroppo si aggravano all'inizio 2010, già 155 le istanze presentate complessivamente, tre nomi come avete letto, viaggi del ventaglio, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione per marchi importanti come Montefibre, le pagine utili e la SNIA, e appunto ascolteremo anche un passaggio dell'intervista di Raffaella Calandra. Prima però il GR 349-238-6666. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo aver commentato il dato di oggi, purtroppo deludente, su come si è chiuso l'anno per l'economia italiana, il PIL nel quarto trimestre, invece che avere un segno più rispetto al terzo, ha avuto un segno a sorpresa meno, e quindi la crescita che ci portiamo nel 2010 è pari a zero. E dopo aver commentato la borsa, oggi abbastanza tranquilla, con l'ENI dopo i risultati andare bene, bene anche Campari, più in difficoltà invece le banche, passiamo, come annunciato, anche a raccontare le situazioni di difficoltà prima delle imprese e poi invece anche dei lavoratori, ma anche le possibili soluzioni. Dicevamo delle istanze di fallimento, 600 in più presentate al Tribunale di Milano nel 2009 rispetto al 2008, con i nomi che abbiamo citato sono nomi di società che hanno chiesto o concordati preventivi come Viaggi e Ventaglio o accordi di ristrutturazione come Montefibre, Pagine Utili e SNIA. Però in un'intervista che poi potete ascoltare domani alle 13.30 nel corso del programma Storiacci di Raffaella Calandra, la nostra Raffaella Calandra ha chiesto anche al presidente del Tribunale Fallimentare di Milano, Filippo Lamanna, che cosa si sta modificando in chi chiede una procedura fallimentare oppure un concordato preventivo. C'è un aumento delle istanze di fallimento nel 2009 rispetto ai due anni immediatamente precedenti. Poi bisogna vedere quanti sono i fallimenti dichiarati, le procedure aperte. Al di là dei numeri e delle cifre, se uno va a vedere i dati qualitativi e non meramente quantitativi, si accorge che buona parte dei fallimenti dichiarati, che sono in numero rilevantissimo rispetto agli altri anni, ben 734, riguarda società, imprese piuttosto grandi. E questo è il salto di qualità rispetto alle situazioni degli anni precedenti, in cui venivano colpite prevalentemente imprese medio-piccole. Adesso invece c'è un'impennata delle procedure dichiarate a carico di imprese medio-grandi, e le quali poi hanno variegato il tipo di accesso alle procedure concorsuali, facendo impennare anche le cifre dei concordati preventivi, che sono raddoppiati da 42 a 81, e gli accordi di ristrutturazione, che sono passati da 0 a ben 27, e tra questi c'era quello della società Risanamento, che era una società di dimensioni notevolissime. Nel primo mese del 2010 il trend non si è invertito, ma prosegue, anzi si accentua, perché le procedure di ristrutturazione e i ricorsi per concordati preventivi segnalano l'arrivo di società quotate in borsa anche di notevoli dimensioni. Caccia i nomi, speriamo poi che in realtà alcuni possano ripensarci, insomma questa è la tendenza e questi sono i fatti, così come un fatto che oltre ad avere un aumento della disoccupazione negli dipendenti, negli operai, la stiamo raccontando nella sua cronaca da intere settimane, a inizio settimana ci siamo occupati anche di un problema che spesso alcuni snobbano perché dicono tanto i dirigenti e i manager sono ricchi, mi riferisco ai 9.000 dirigenti che hanno perso lavoro l'anno scorso, di cui 5.000 nel settore industria e 3.000-4.000 nel settore servizi. Perché ne parliamo? Perché in questo periodo stanno lavorando parecchio e aumentano anche i fatturati tutte le società che si occupano di quello che si chiama outplacement, cioè di dare una mano a questi lavoratori che perdono il lavoro a ricollocarsi, magari anche facendo consulenza e formazione nel periodo di transizione. Siamo in collegamento con Gabriele Lusvarghi, che è amministratore delegato di DBM Italia, che è la società italiana leader appunto nel servizio di outplacement. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Allora, se ho ben capito, voi aiutate, questo vuol dire poi l'outplacement, singoli individui, che siano dipendenti, impiegati, dirigenti, quadri, ma anche i gruppi di lavoratori? Certo, noi assistiamo anche gruppi di lavoratori che siano spesso con ammortizzatori sociali, a seguito di quello che può essere, che spesso è un accordo con l'azienda e le organizzazioni sindacali, perché l'ammortizzatore sociale non diventi un momento di parcheggio, ma diventi invece un momento finalizzato al riposizionamento sul mercato del lavoro, sostanzialmente. Quindi non solo aiutate chi ha interrotto il rapporto di lavoro, ma anche chi è in una fase di ammortizzatori sociali, quindi cassa integrazione, per essere ancora più chiari? Si cerca di fare un'azione preventiva piuttosto che una sola azione di cura quando il fatto è già successo. Fare in modo che questo periodo della cassa integrazione non sia un periodo di parcheggio, che cosa vuol dire poi concretamente? Lavorare con le persone in un'ottica intanto di rimotivazione da un punto di vista psicologico, perché comunque il rischio di perdere un lavoro è certamente un fatto traumatico nella vita di una persona. Consentirgli di non perdere contatti col mercato del lavoro vuol dire aiutare le persone a comprendere quelli che sono i loro punti di forza sui quali puoi puntare per riposizionarsi sul mercato. Vuol dire anche contattare aziende del territorio per verificare la loro disponibilità a incontrare le persone a fronte di posizioni, a fronte di esigenze che queste possono avere finalizzate a un reinserimento. Allora, sono aumentate le richieste di aiuto e quindi di assistenza, consulenza, outplacement nel 2009? Immagino di sì. E quali le categorie più coinvolte? Sono sicuramente aumentate e stiamo parlando direi di un aumento del 40%. Quindi questo... il vostro è uno dei pochi settori in cui aumentate il fatturato? Sì, sostanzialmente. Sì. Cioè sulla pelle degli altri, non dico senso buono, però le aumentate, certo. Di questo tipo di richiesta ha coinvolto un po' le fasce del mercato del lavoro, in misura un po' inferiore le fasce operaie, perché sappiamo che in questo momento c'è molta cassa integrazione, mentre invece su tutte le altre aree c'è stato questo aumento di richiesta importante. Allora, a inizio settimana abbiamo fatto una puntata occupandoci anche dei manager, dei dirigenti disoccupati, con anche vari sms polemici al 349-238-6666, perché diciamo, ma vi preoccupate dei dirigenti, ribadisco, i dirigenti non sono sempre, anzi sono spesso non così ricchi e hanno stipendi con tutte le tasse pagate alla fonte. Anche voi avete notato un aumento delle richieste che arrivano dai dirigenti di aiuto? Cioè, una volta il dirigente, se cambiava lavoro, lo trovava rapidamente, no? Però il mercato è cambiato, sappiamo certo. Che oggi ci sono tanti processi di fusione, di accorpamento, di trasferimento all'estero di funzioni, per il quale sicuramente oggi c'è un numero di dirigenti superiore a quelle che sono le opportunità che il mercato offre. Come si è mossa la richiesta di aiuto da parte dei dirigenti? In crescita anche questa nel 2009? In crescita assolutamente, direi che è il settore forse che è stato più coinvolto da questa richiesta di aiuto. Il tempo di ricollocamento si è allungato nel 2009, cioè il tempo che ci vuole tra quando un lavoratore si interrompe un rapporto di lavoro e quando ne inizia uno nuovo, diciamo, per essere ancora più espliciti, a quanto era fino al 2008 e a quanto è arrivato nel 2009? Ma allora, se parliamo di dirigenti, sia nel 2008 che nel 2009 siamo intorno a una media che va fra i 6 e i 7 mesi per una ricollocazione. Quello che è cambiato in parte è la tipologia di ricollocazione. Mentre nel 2008 la maggior parte dei dirigenti trovavano un altro posto a dirigente, nel 2009 circa un 60% dei dirigenti hanno trovato un nuovo posto a dirigente, gli altri si sono reinseriti sul mercato del lavoro attraverso dei contratti flessibili, per cui attraverso delle partite, aperture di partita IVA o i famosi contratti a progetto. Ecco, e da lì la definizione ormai in voga dei i forzati delle partite IVA, cioè partite IVA che vengono aperte non come scelta ma come obbligo, come unica soluzione. Non vorrei però occuparmi solo dei dirigenti, per gli operai le diceva già che il dato è più basso perché c'è la cassa integrazione che tutela, ma gli impiegati e i quadri? Ma gli impiegati e i quadri hanno trovato ricollocazioni in tempi anche questi mediamente abbastanza stabili. Quello che è aumentato per queste due categorie è il ricorso al tempo determinato come prima soluzione di ingresso. Per cui rispetto al passato la maggior parte delle persone entra in azienda attraverso un tempo determinato e poi dopo un certo periodo questo tempo determinato magari viene trasformato. È per questo che noi nei nostri programmi offriamo una specie di garanzia, e cioè se il tempo determinato alla fine, alla sua scadenza, non viene trasformato in un tempo indeterminato, riassistiamo la persona per cercare un'altra soluzione di tipo più definitivo sostanzialmente. È diminuita la continuità tra vecchio lavoro e nuovo, cioè continuità vuol dire che tu vai a fare una cosa che assomiglia a quella che facevi prima, diciamo. Continua a fare qualcosa che assomiglia e anzi assomiglia molto a quello che si faceva prima, perché è in aumento la richiesta di specializzazione, per cui in realtà le aziende cercano persone che siano operative da ieri e questo vuol dire che devono essere persone specializzate che già facevano quello che vengono richiamate a fare. Mi scusi, visto che è venerdì, ci dà una notizia positiva così, sta per iniziare il weekend? Ma diciamo che il 2010 è partito meglio di quanto sia andato l'anno scorso e direi che il numero di colloqui e il numero di ricollocazioni sono in aumento. Beh, almeno vediamo che si muova anche la macchina del mercato del lavoro. Grazie, l'amministratore delegato di DBM Italia, Gabriella Lusvarghi. Grazie. Adesso il traffico e poi ultima intervista di questa puntata, il presidente dei costruttori italiani fuori dal lance chi corrompe, quindi molto netto il giudizio, fuori chi opera nell'illegalità. Parleremo anche in questo caso però di andamento del settore, di occupati. 349-238-6666 per i vostri sms. Ultima parte di Focus Economia e ultima puntata della settimana. Allora, è inutile che vi ricordi, insomma, quanto campeggia sulle prime pagine di tutti i giornali, e quindi l'inchiesta sugli appalti per il G8 alla Maddalena, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quello che ha la gestione suprema degli appalti, Angelo Balducci in carcere assieme a Mauro della Giovanpaola, che era il responsabile della missione per il G8 in Sardegna, e l'imprenditore Diego Anemone. Praticamente insomma, qui la vicenda poi diventa anche politica, lo sapete tutti, per il ruolo di Bertolaso. Al di là di quella che è l'inchiesta della magistratura, oggi è arrivato un commento proprio all'Aquila, in cui Finmeccanica ha consegnato un premio innovazione da parte del presidente dei costruttori italiani, l'ANCE, che raggruppa praticamente tutti i principali costruttori di questo paese. È in collegamento con noi Paolo Buzzetti, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Allora, ci dica intanto, è un'iniziativa simile a quella che ha preso la Confindustria su base nazionale su chi paga il pizzo, già proveniente dalla Confindustria palermitana e siciliana, cioè se voi scoprite un'illegalità espellete? Assolutamente sì, del resto questo lo avevamo anche diversi mesi fa in altre situazioni dichiarato. Abbiamo un codice etico dell'associazione e comunque laddove emergano gravi responsabilità accertate non c'è dubbio che questo è il nostro comportamento nei settori, lo avevamo detto anche sulla sicurezza nel lavoro qualche mese fa, naturalmente ribadiamo insieme a Confindustria nel caso della malavita organizzata o anche di irregolarità di altro genere. Mi scusi Buzzetti, ma questo quando? Quando c'è una sentenza o quando c'è un invio a giudizio? Quando viene arrestato? Insomma, quando? Dunque, qua siamo agli interrogatori di garanzia. Le leggi esistono quando la responsabilità sia stata accertata dai magistrati competenti, questo è fuori discussione, è lo stato di diritto. però il passo è fortissimo perché non è mai stato fatto in passato da associazioni di categoria un gesto di questo genere, diciamo, e diventa quindi un impegno morale molto importante della nostra associazione, che abbiamo sancito già molti mesi fa con l'adozione contemporanea di un codice etico, che anche questa è una grandissima novità. Quindi io direi che è un gesto molto forte e di presa di posizione molto netta. Tra l'altro l'abbiamo anche ribadito avendo accolto l'appello del sindaco Celente, e devo dire che siamo rimasti tutti, purtroppo le parole inorridito è la più corretta, avendo saputo di quelle dichiarazioni telefoniche veramente inaccettabili che abbiamo sentito sul, mi fa fatica a dirlo, insomma, sulla gioia di fronte a un evento disastroso come il terremoto. Allora, e quindi sì, siamo sentiti in dovere di ribadire questo atteggiamento estremamente severo e duro. Sì, Cialente è il sindaco dell'Aquila, e il riferimento che lei fa a quegli stralci di intercettazione che abbiamo letto sui giornali, in cui a pochi minuti dalla scossa che causò oltre 200 morti, dalle scosse, c'erano già due imprenditori, due costruttori che ridevano e dicevano: beh, qui in sostanza ce n'è per tutti, diamoci da fare, non perdiamo l'opportunità. E vabbè, sono cose che si commentano da sole. Però una cosa vorrei capire: questo annuncio, poi, per avere un effetto deterrente, cioè non so, se verranno processati, Anemone verrà processato tra 3 anni, aspetteremo il primo grado, il secondo grado, come intendete muovere? Perché va benissimo l'annuncio, ma deve essere anche poi effettivo, no? Beh, lo è effettivo nel momento in cui emergano con evidenza queste responsabilità. Questo compete ovviamente alla magistratura, ovviamente lo Stato di diritto, e non compete, non possiamo, diciamo, esimere da rispettare queste indicazioni. Però, diciamo, per quel che riguarda la nostra competenza, l'atto diciamo conseguente non è assolutamente scontato. Lei poi sa che noi aderiamo a Confindustria, certo, quindi effettivamente siamo... Le faccio una domanda che non vuole essere polemica, però insomma viene anche suggerita dagli ascoltatori: ma perché nel mondo delle costruzioni, secondo lei, ci sono più rischi di corruzione? Voglio dire, la legge Merloni, in realtà la legge varata dopo Tangentopoli ebbe l'effetto, sì, forse di ridurre la corruzione, ma bloccò anche moltissimi appalti. Voi non l'avete mai amata nel completo, perché rendeva molto molto farraginoso l'appalto, sempre a ribasso, insomma si generavano anche delle distorsioni economiche, lo dico col massimo rispetto. Però perché nel mondo delle costruzioni, visto che fra la prossima settimana verrà presentato il progetto di ponte sullo stretto, dico, per carità, ognuno la pensi come vuole, ma perché ogni volta che c'è una costruzione grossa, un grosso appalto, G8, c'è il rischio che arrivi la magistratura? Guardi, in effetti il rischio c'è anche, ovviamente, purtroppo nel paese, in altri settori. Certo, però questo certo. Per quanto no, però giustamente lei dice, me lo rivolge giustamente sul nostro settore, perché c'è una selva di norme, di leggi, diciamo che anche negli ultimi 20 anni sono accumulate una serie di provvedimenti successivi che cercavano di migliorare, parlando adesso in particolare dei lavori pubblici, ma è così anche nelle concessioni edilizie. Ci sono realmente una selva di norme e una serie di possibili controlli che poi di fatto molto spesso non ci sono, e le norme creano la vita difficile, senza litigare per categorie, non solo alle imprese ma anche agli amministratori, e rendono veramente difficile diciamo l'amministrazione da una parte e il comportamento delle imprese dall'altro. Quindi il rischio è altissimo quanto più sono complicato questa selva oscura di norme che ci sta asfissiando, rendendo difficile le procedure. Non è naturalmente mai una giustificazione, ovviamente, per qualsiasi comportamento, ma la strada di un paese moderno è la semplificazione normativa e il controllo. Allora, purtroppo nel nostro paese la semplificazione amministrativa non solo si sta perdendo, ma ormai è un ricordo, semmai c'è stata, lontanissimo, e il controllo non c'è molto spesso. Quindi il rischio che si vada verso situazioni gravi dal punto di vista di comportamenti che non rispettino le leggi, ahimè, è molto alto. E temo che tenda a crescere man mano che crescono queste due caratteristiche che le stavo dicendo, perché le amministrazioni pubbliche stanno collassando, non ce lo dobbiamo nascondere, lo dobbiamo mettere in evidenza. La soluzione non è quella di fare, come per esempio il provvedimento che si vuole fare della protezione civile SPA, che prende e dice: io, siccome le cose le devo fare, tolgo di mezzo tutte le leggi e procedo in maniera discrezionale. Io credo che tra un paese ingessato nel non fare nulla per la paura che si facciano cose irregolari, a un paese che fa una deregulation totale con strumenti che cancellano i comportamenti ordinari e le leggi esistenti, può esistere la strada difficile ma coraggiosa e determinata delle riforme, come noi stiamo dicendo da molto tempo, riforme amministrative, paese moderno, norme semplici e controlli severi. Vabbè, ce lo auguriamo anche noi, perché poi il costo di queste opere, quando sono pubbliche, ricade anche su noi cittadini. Grazie al presidente dell'ANCE Paolo Buzzetti. Da Sebastiano Barisoni, dopo aver ringraziato Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza anche questa settimana in redazione, l'augurio a voi tutti di un buon fine settimana. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.